Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio. Attenzione, quello che ascolterete per i prossimi 60 minuti potrebbe urtare la vostra sensibilità. Se siete soggetti privi di umorismo, sarcasmo e autoironia, vi consigliamo di cambiare frequenza o di ascoltarci in presenza di qualcuno estremamente paziente da spiegarvi che vi stiamo prendendo per il culo. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. We come and rapper, we come and rapper. We come and rapper every time. Hey, hey, hey, hey. We come and rapper every time. Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. Buonasera a tutti e a tutte. Eccoci, allora buonasera a tutte e a tutti i compagni. In questo momento sono all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, modulazione di frequenza. Un saluto io speciale. Te l'avevo detto. Io te l'avevo detto, ci siamo tornati, è domenica. Bella giornata, sì. Dai, settima speciale. Puntata, allora, mica poche, insomma. Oggi puntata un po' così, come dire. Siamo tristi perché non c'è Giacomo Mazzo con noi. Ebbene, è malaticcio, il cucciolo. Ebbene, oggi non ci sarà Giacomo Mazzo con noi, ai microfoni di Io, te l'avevo detto, sta male. Allora lo salutiamo tutti. Grazie. Ciao Jackie. Ciao Jack. Senti, facciamo una cosa, sentiamoci un po' di sigla e lo chiamiamo, dai, sentiamo che dice. Dai. Sì, sì. For them is Don Quixote sky now way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom shout, to hell with your double standard, we come and rougher every time. We come and rougher, we come and rougher every time. Hey, hey, hey, hey, we come and rougher. Jackie, chi sei? Eccoci. Eccolo. Cucciolo. Ciao ragazzi, ragazze. Ci manchi tantissimo. Dai. Anche voi mi manca. Non sapete che palle non poter venire, ragazzi. Mamma mia. Veramente, però guardate, questo stato comatoso penso coinvolga tanti e tante che ci stanno ascoltando oggi. Ho letto e sentito di molte e molti che stanno in questa situazione di semicoma. Ti capisco perché però, cioè, ne ho mia. Subito le terribili, cioè. Vabbè, dai, ci stiamo a fare chiacchiere nostre. Presentiamo l'argomento della giornata, va. Sì. Dai. Che cosa abbiamo pensato di parlare questa settimana? Visto che c'è stata una visita speciale dentro Cose dell'altro mondo, sì. E visto che c'è stato questa visita speciale Bastiani, cioè Strike, l'altra sera, a noi ci è venuto in mente giusto appunto di chiacchierare questa cosa qua, che alla fine tutti quanti sti VIP, influencer, diciamo, andremo un po' a scandagliare alla fine, quando sì, vabbè, parliamo un po' di tutto dello star system, quando metti le somme se non ci stiamo noi star, come dire. Quando metti le somme se non ci stiamo noi, questi non sono nessuno, esatto. Cioè, noi abbiamo proprio questo valore aggiunto nei loro confronti, che, come diceva tra l'altro il caro Marino Severini dei Gang. Dice: c'è una grande differenza tra noi e loro, al di là di tutto, che noi siamo belli e loro sono brutti come la morte. Ma la cosa migliore è che sono ridicoli comunque, no? Esatto, sono ridicoli. Con quale faccia? No, ma chiediamoci perché. Come mai ci vengono? Perché vengono a cercare idee, spunti in questo mondo? Non sappiamo bene, magari sarà andato a sentire qualcosa, un concerto. Il fascino esotico del punk a bestia, che dici? Ma sì. Vabbè, però. Ma che cosa sarà andato? Che cosa sarà andato a fare secondo voi, Bastiani? Ma secondo me è andato tipo a fare scouting, visto che lui comunque è un grande musicista che fa il tournée in giro del mondo. In concerto, che ne sai? Bravo. Secondo me pure è andato a fare. Ma perché ci sono delle voci non confermate, che dicono che sto Bastiani stia preparando un mega talent, o comunque si stia lanciando nel mondo della discografia musicale, perché pare che rappresentare una delle più grandi multinazionali del capitalismo industriale alimentare non gli bastava. E quindi pare che vuole essere anche rappresentante di gruppi musicali, eccetera, e quindi pare che stia facendo scouting. Ora è andato a fare scouting ad un concerto hardcore, ragazzi, quindi è uno rock and roll giù. Capito, cioè le pretese. Sarei andato semplicemente a sentire il gruppo, questa è un po' la situazione. Presentato col taxi, capito? Simone sta diventando Bastiani. Ecco fatto, io lo sapevo. Non so se te ne stai accorgendo. Io sto facendo finta di non sentire questa difesa d'ufficio da parte di Simone. No, ma in realtà non era una difesa, era una difesa, la buttavo là. Mi sta a bippa. Lo bippo. No. Però bene, cioè secondo me è un buon, come dire, per noi, io te l'avevo detto, è un bello spunto, diciamo, sembra quasi una cosa che abbiamo pensato noi, sembra quasi uno. Sì, esatto. E infatti era questo quello che ci ha proprio colpito, diciamo, no? Che dicevi anche te. Infatti, si è scatenato il web, no? Ho visto tutti i meme che sono usciti fuori su questa cosa, Bastiani c'è il forte, fantastico. Bastiani, no, ma non era il forte, tra l'altro, non era il forte. Sì, però hanno fatto il meme con Bastiani al forte. Ah, no, veramente, non l'ho visto. Sì, bellissimo. Grande. Vabbè, mo può essere che ce lo ritroveremo un po' in giro, dai. Ma sì, sicuramente. Ma magari la serata di ieri, noi siamo reduci della serata di ieri, sicuramente c'era pure. Infatti, magari lo invitiamo a fare la serata a sostegno per la radio, giorno dopo. Esatto, no, mai, questa è blasfemia. Senti che ha detto. Cazzo e comunque da lì, insomma, abbiamo pensato un po' di, visto che ci rubano le idee così, c'era sembrata, perché questa, no, questa sembrava una notizia un po' da, come dire, da, io te l'avevo detto, e allora abbiamo detto: come fai a non parlarne? È paradossale, quindi. No, dai, assolutamente, dentro uno dei posti che dice proprio mangiamoceli ricchi, no? Ma non solo, insomma, poi la canzone che ci sei pure tu, dai, diciamolo, insomma, i temi di oggi saranno svariati, insomma, ci sarà un perché Sanremo è Sanremo, no, tutte le polemiche che ci sono state, te pare che noi una tuzzicata non gliela diamo, no? Tu che dici? Io direi proprio di sì. Insomma, anche ce ne deve parlare oggi. Cioè, se n'è tanto parlato con uno sguardo, diciamo, unilaterale nei confronti di questa o di appoggio o di critica strumentale a quello che è stato detto a Sanremo da Amadeus, e quindi secondo me è il caso che ne parliamo noi oggi in maniera nostra, ecco, in maniera un po' non fa ridere polemica senza Sanremo, no? Non fa ridere. Non fa ridere, no, certo, no, lui non ha fa fatto incazzare, non fa ridere. Esatto, non c'è proprio niente da ridere. Però quello che mi viene da pensare è alla naturalezza con cui questa cosa è emersa. Certo. Quindi la cosa che mi fa preoccupare è che tutto questo, al di là delle critiche che si sono generate, è una cosa normale all'interno della cultura nazional popolare, è una cosa normalissima considerare le donne degli esseri inferiori rispetto agli uomini e degni di nota se sanno stare al loro posto, che sarebbe un passo indietro. Quindi esatto, in pratica che mentalità con, no, con la clava lui tranquillamente. Quindi però vabbè, in ogni caso ecco, arriviamo noi e mo ci diciamo quattro, cioè arrivate voi, perché io ragazzi qua ormai mi sembra di star tombato dentro qua, quattro mura, vi ascolto con le cuffie, sono triste. Vabbè, dai, pure noi saremo tristi insieme oggi. Dai, pensaci fortissimo. Pensaci fortissimo. Noi cerchiamo di darti il nostro appoggio, dai. Grande Pippo. Oh, mi raccomando, Oh, dai, dai, oh, raga, grandi. Oh, saputo che ieri è stato un seratone? Sì, è andata bene, ieri, andata bene. Seratone, spendiamo due parole, dai, grandi. Dai, grandi. Ciao, raga, buona serata e buon proseguimento. Ciao, Jack. Bella, Jack. Eccoci, quindi abbiamo introdotto il tema della giornata, come dicevamo, no? Ecco, insomma, un po' gli chef star... E quello che succede nello star system, via, prenderemo un po', sbeffeggeremo un po' tutte le dichiarazioni assurde della settimana proprio inerente a questo. Questo è il soggetto, niente male comunque, dai. Il problema con sto piatto, qual è il problema con sto piatto? Che mi ha bloccato, esatto, la gola, esatto, come una pallina di catrame, esatto, e devo andare, esatto, all'ospedale. Povero. Adesso se no muoro. Vabbè, e comunque muore, proseguiamo in questa domenica uggiosa, come dire. Noi dicevamo appunto poco fa con Giacomo Mazz, allora, che parlavamo di ieri sera, appunto noi siamo reduci della serata di ieri della, a favore dello Scafest 2020 Etrusca Jazz Scazzo Styla, niente proprio di meno che, è stato un seratone, siamo stati felicissimi di essere lì allo scoop insieme a tutte le sorelle e tutti i fratelli per una causa grandiosa e insomma un'energia incredibile, ci sembrava giusto spendere due parole. Sì, grazie a tutti, sì, e a tutte, perché comunque nessuno deve prendere la ira per fare queste cose, ci divertiamo, cultura popolare. Esatto. E soprattutto se ci sentite sbattuti è proprio per quello, insomma. Sì, siamo un po' rovinati, diciamo, che a letto non ci siamo andati e quindi ecco fatto, ci ritroviamo direttamente qui a condividere con voi queste notizie un po' assurde, insomma, tra show sul cibo che ci hanno nettamente riempito la televisione, dove vediamo mille ristoratori contro mille altri ristoratori. Io sono un grandissimo fan. Che si sfidano a provare a cucinare cose che poi non riescono a fare per poi buttare tutto, e quindi a noi per esempio una intuzzicata anche su questo la volevamo dare. Metti un contributo, dai, primo suggerimento della giornata, e noi sbarazzini ce ne approfittiamo per sparare un po' di The Skins, e questa è A Pack in the Wheel. No, stavo a mettere un contributo, però se vuoi metto gli Skins. Ah no, pensavo volessi mettere quelli, guarda, e allora fai tu. Vabbè, metto gli Skins. Dai, allora spariamoci. Sì, Up the game the wall. Non li trovo. Vabbè, rimetto il contributo. La cameriera arriva a sta pizza. La maresca, io ho detto la pizza napoletana. C'hai fame, eh? C'ho fame, sì. Allora mangiate questa, vieni. A merda? Mica ti farà schifo. È roba tua. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh? Sempre merda, eh? Sì, ma la parmigiana. Magna, va, su, dai. Magna. Sì, magna. E questo era un po' un contributo per far capire quello di cui ci stiamo cibando dalla televisione. E si era capito, e no, e non solo, insomma, dalla televisione, dai personaggi un po' che la abitano, ecco. Senti, spesso. Gli Skins non li trovo, quindi metto in Family Show. Va benissimo, buon ascolto, allora già. Buon ascolto in Family Show. Fottuto rito. reality show. Fanno schifo pure i popcorn, non dire di no. Si fa tutto quel che si può, ma o sai fare show pure show, non dire di no. C'è chi casca in vasca col phone, basta che gli rimanga in tasca l'iPhone. Sul beat di Le Bon, tu le mona alla maison. Vuoi sapere cosa penso da un po'? Che me ne fotte del trend, della tua nota donne cocktail champagne, di tutte ste bigotte che si fingono Belen, ma che dopo quattro botte già mi dicono je t'aime. La mia crew sembra tipo il Wu-Tang Clan, e nel giro di un weekend butta giù la tua gang. Non voglio lamentare, ho già troppo le palle piene di gente che appare in tele, solo grazie a parentele, vabbè. Offro il mio servizio come Sampras, nel cervello più metallo che negli Anthrax. Tu fai rap? Togliti quel Tampax, lo metto nel caffè, poi lo vendo a te per Starbucks. Ologrammi vanno avanti a domandarmi, ma devo comprarmi il disco, rischio di omologarmi. Già mi stigmatizzo, a che serve condannarmi? Mi organizzo un droga party quando muore Giovanna. Seguimi, taggami, non pensi non dire di no. Cercami, guardami, l'hai detto non dire di no. Amami, invidiami, odiami, indignati per tutto quello che ho. Spiaccente ma non ho mai chiesto l'abbonamento al tuo Infamity Show. Meglio di no. Infamity Show. È meglio di no. Infamity Show, meglio di no. Chi è il prossimo? C'è Bassi maestro. Arrivo. Ciao Bassi. Eccomi. Ciao. Come stai? Ti vedo in forma. Beh, senti, dai, spiegami cosa ci fanno questi due qua. Cosa? Nel programma, cosa ci fanno questi? Sono i nostri ospiti. Poi sto cazzo. Tutta gente che ha a casa tua. Dove va questo con sti capelli? Ma Paolo, dov'è il mio manager? Basti, stai tranquillo. No, ragazzi, io non faccio il programma con questi due buffoni, ve lo dico. Ma come buffoni? No, mi avvisate prima. Si doveva parlare di rap serio, io qua non ci sto. Anzi, sai cosa? Vaffanculo, te il tuo programma. Ah, sì, ehi! Ma andate a cazzo, va, buffoni. Che cazzo? Ma sono scemo io eppure pieno di fantocci che si credono dei VIP. Quelli che se c'è una Clio devono farti notare che posseggono una Jeep. Fatti a stampo tutti uguali che li sgami con un solo identikit. Il padre fa gli affari, la madre devota a Dio, e il fratello che sputtana tutti i soldi in uno strip. Censura mi sto... Tanto ormai sono un freelancer, dillo al tuo amichetto influencer. Quanto mi rincresce sapere che non posso fare il rapper, a meno che non metta una felpa di thrasher. Odio le vostre feste, dove è tutto perfetto ma nessuno si diverte. Dove aperto a pelle ve l'ho detto, non accetto offerte. Prendo e metto il rapper sotto effetto Werther. Sto easy, sto con tuo puntino. Tra sorrisi finti, intrisi di botulino. Queste miss fanno please, oh Jesus. Vanno in crisi, fanno cisma, è finito il rullino. Brutto life, vuoto il posto. E questo è il costo? Tutto hype e niente arrosto. E scusa se è ridicolo, ma sono circondato da coglioni che mi dicono: seguimi, taggami, non pensi non dire di no. Cercami, guardami, l'hai detto non dire di no. Amami, invidiami, odiami, indignati per tutto quello che ho. Dai un lavoro se ti rompo quel cazzo di iPhone. Infamity Show. È meglio di no. Infamity Show. Meglio di no. Molto meglio di no. Speriamo di no, come dire, no? Bah. Allora. Fanno un po' ridere, dai, sì. Eccoci qua, dunque, settima puntata di Io te l'avevo detto. Yes, hai niente proprio di meno che non c'è Jack con noi oggi alla guida del programma e navigheremo in acque, come dire, Star System TV, Chef Star, ecco, insomma, di tutto di più e soprattutto tutta quella valangata di purtroppo spazzatura che sta girando e via. E analizzeremo, abbiamo visto, insomma, un po', abbiamo fatto un excursus con Jack dicendo ciò che succedeva per quanto riguarda noti chef che vanno in giro per spazi sociali. Secondo noi, era questo un po' quello che ci chiedevamo. Forse dovremmo spiegargli la natura di quegli spazi e l'effettiva, insomma, loro scopo. Ci chiamano, Spo. Ci chiamano, una chiamata. Rispondi tu. Dai, rispondi tu. Rispondo io. Vai, rispondi. Pronto. Dunque, hai i telefoni di Io te l'avevo detto. Pronto? Chi è? Pronto, sono Alma di casa. Alma, grande. Io sono l'anima di casa. Dove io Io vi chiamo da Roma, vi volevo fare una domanda perché vi stavo ascoltando, io sono nuova, non vi ho sentito mai, ma sentivo che parlavate di cucina, io so Alma de casa, cucina, cucino, lavo, cucino, stiro, lavo, cucino, faccio passi avanti, passi indietro. Una domanda però vi volevo fare perché ho sentito che voi l'avete conosciuto, perché questi personaggi, come si chiamano? Questi influencer, questi con l'influenza. L'influenza, che io ancora non ho capito, però vabbè, c'hanno l'influenza, noi gli vogliamo bene, stanno tra di noi, gli famo compagnia, no? Sì, sì. Così guariscono prima. Sì, non so. Pure Giacomo. Allora, però io ho una domanda, ma a Bastiano, a questo qui che è andato a sentire, com'è? Che si chiama questo Bastiano? Bastiani? Sì, Bastianovic, Bastiano. Posso fare una domanda? Perché io li guardo questi in televisione quando cucino, lavo, scolo, lavo, stiro, lavo, cucino, pulisco, lavo. Come si fanno le alme di casa, ma questo i piatti chi glieli lava? Quello che ci stiamo mangiando. Cioè, io una domanda mi faccio, no? Perché io gli voglio bene questi ragazzi, poi tutti carini, tutti. Io come fanno? Cioè, io lavo, cucino e lavo, e pulisco e lavo, e cucino e sfamo e lavo. E c'ho mia madre che mi dice che lo fa da anni, mia nonna me lo dice che fa da anni. In televisione non ci siamo andate mai, noi la televisione la guardiamo. Forse perché stavo un passo indietro, io lo faccio un passo indietro, però poi a volte dico no. Ma questi che passi avanti hanno fatto, che noi non abbiamo fatto, che invece vanno in televisione e io vorrei sapere, ma chi gli lava i piatti? Gli buttano? Ma questi sì, gli buttano, hai visto? Vanno pure la scena. Come la roba da mangiare? Io non voglio creare conflitto, voglio fare domande. Certo. Pure noi. Chi gli lava i piatti? Voi ce l'avete la risposta? No, perché io credo che poi Bastiani, siccome è cresciuto, chi l'ha sfamato? Perché io poi a metro. Allora c'era uno de amico di quello lì, pelato, con suo nome Bastiano, che faceva una pubblicità, c'era una patatina con ovo, ma sì, se sfamano così, perché lui era magro, buon amore, era spaventato, spaurito accanto a sta patatina con l'ovo. Allora io dico, ma questo è il parmigiano, un po' di pomodoro, un po' di proteine. Poi io capisco che quando hai grattato l'ovo, poi devi quando hai grattato il parmigiano devi lavare la grattugia, che è uno sforzo. Mamma. Oh, capisco io, poi non lo so, c'hanno ste mani belle questi, con le unghie lucide. È il potere dell'essere forse chef. Perché a forza di lavare grattugie gli vengono tutte le unghie lucide, che sì, forse. Sì, sì. Allora io dico, chi l'ha cresciuto Bastiani a patatine? Cioè, io mi faccio tante domande. Allora, poi Bastiani, cioè, dico, il genere umano, no? Com'è che questi, no, sono andati avanti a patatine, ova fritte? È una fatica, è una vita dura, cioè, dai, non è bello. No. E chi ha lavato i piatti? Il padellino per per farlo vetto. Io dico no, secondo me no, e allora io dico forse un giorno finisco con una provocazione, perché io so Alma de casa e sono a me. Certo. No, so antipatica, sempre polemica, ma allora io dico, sarà che un giorno noi siamo un passo avanti, se portiamo tutte ste stoviglie e gliela andiamo a da tutte quante, a tutti quanti questi, e li sfamiamo per bene, come dici, ma no a fame di cibo, a fame di stoviglie, sì, capito? Sì, allora io dico, c'è chi fa il casserolazzo, sono alla pentola, no? Allora io dico, no, in questo mio delirio che ho fatto in questa bella radio, faccio questo delirio, ma se un giorno tutte quelle che lavano le stoviglie facessero un passo avanti e si portassero dietro tutte le cucchiarelle, tutte le pentoline, e decidessero che questa vendetta passasse anche verso questi elementi, no? Altro che hardcore qua, lo famo noi un po' di sano trash, no? Sì, sarebbe. Quindi la mia domanda rimane così all'umanità, ma a Bastiani, ma chi glieli lava i piatti? E questo al mondo chi glieli lava i piatti? Forse la Unzicare che ci ha discusso, no? Quella è un'altra ma no, sicuramente poi quella è un'altra storia, però. Le risposte sono multipli, ecco, però volevo un po' così calcare la mia simpatia, come sempre, il mio essere per niente polemica. Per niente, ormai. È vero, sì, è vero. In fin dei conti è tutta quanta colpa, merito nostro se esistono questi, però questi senza di noi non esisterebbero. Quindi è tipo un controsenso. Diciamo enorme. Che questo noi è fatto, secondo me, da due elementi. Uno è chi lava i piatti, che ha fatti cresci, fama gli lava i piatti. Che non siamo solo noi, perché poi il mondo è diviso in tante categorie. Esatto. Tipo, se andate nei ristoranti c'è lo chef e c'è chi lava i piatti, e lì si capiscono tante cose. Cioè, diciamo che quello che io sto dicendo può permeare questo mondo in tanti sensi, lo può permeare in categorie di genere, lo può permeare in categorie di classe, mm-hmm. lo può permeare in categorie, esatto. Anche etniche, tristemente, no? Perché poi sappiamo che in un mondo così un po' di merda e viene così, no? C'è chi cucina, chi lava, c'è stanno i ricchi, c'è stanno i poveri, esatto, molto così, è molto trasversale questa cosa, quindi ecco, diciamo che viva il casserolazzo. Ce l'abbiamo un'idea di come risolvere la situazione, però ne parliamo un'altra volta, dai. Dai, un abbraccio. Ciao. Grazie. Bella. Ciao. E ringraziamo, cioè, per l'intervento. Alma. Alma. Alma bio, via, viva. Alma de casa. Bah. Vabbè. Grandissimi. Allora, andiamo avanti, grazie Martù. Vabbè. Allora. Vogliamo parlare del prossimo argomento. Dai, dai, e giusto appunto si facevano, no? Quello che stavamo ragionando proprio con Alma, insomma, che faceva un po' la provocazione, che non è proprio una provocazione, dietro c'è un senso molto più ampio, e cioè mai un passo indietro, ed era riferito alle simpatiche parole, proprio, come dire, del, che riguardano Sanremo. Ah, già, già, già, già. Già, già, già, come si dice, non c'è polemica senza Sanremo. Bene, sì. E spendiamo due parole, come dicevamo anche prima all'inizio con Jack, proprio a questa uscita che lui ha fatto durante la conferenza stampa, dicendo che una delle vallette, chiamiamo, anzi come le chiamano, una delle lavoratrici, perché questo. Sì, la frase giornale, proprio no. Dice è una cosa ridicola, dai, una cosa ridicola, cioè sono lavoratrici come lui è un lavoro, loro sono lavoratrici, cioè, prima di essere donne già hanno dei diritti, esattamente, mi sento di citarla perché a me ha fatto, come dire, un po' rabbrividire, e dice: anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo stando un passo indietro. A me sta cosa mi ha fatto cascare le braccia. Perché per noi è spaventoso questo stando un passo indietro. Che significa? Concetto qui. Poi servirà anche Jack per farne proprio una puntata apposta, perché qui si apre un capitolo enorme. Lui è evidente che viene da un'educazione maschilista, patriarcale, evidentemente vede la donna un oggetto inferiore, no? Da sta un passo indietro, noi non la vediamo così, pensiamo di criticarlo sempre un passo avanti, noi pensiamo che persone come lui, insomma, facciano piagne, anzi mi auguro, come dicevamo prima, no? Che si faccia tutte un passo avanti, proprio piene testovie a chi li lava i piatti, appunto, e si ritorna sull'oggetto. Insomma, e qui poi chiariamo anche un po' noi la situazione, no? La nostra idea, più che altro, che pur essendo appartenenti al mondo maschile non appoggeremo mai determinati atteggiamenti, e quindi andiamo anche a far citare, cioè a far notare anche una cosa, che è un disappunto appunto, no, sul festival, no? Un festival che dovrebbe parlare dei gruppi, insomma, le nuove leve, non solo della musica italiana, ci ritroviamo con la solita solfa e il solito tram tram della sporcizia, come dire, in TV, ed ecco qui che ci ritroviamo a quello che dicevamo prima, ovvero questo... quanta spazzatura ci dobbiamo cibare ancora. Ma poi, cioè, non basta quella reale, ci mettiamo anche la TV, che, insomma, con questi concetti, con questi messaggi che tende a mandare continuamente, è molto difficile. Hai sentito che c'è sto tizio che si chiama Junior Calli, che sì, sì, questa è un'altra grandissima polemica. A me spaventa un po', perché brutto, ho cercato brutto. Di capire, ancora non ho messo, insomma, a fuoco, no, la persona, però insomma pare si sia un testo di una sua canzone che sia sotto accusa, ma io non le condivido. Ma poi c'è Junior Calli, è solo uno. Esatto, anzi, Junior Love So Nice, Young One. Farite, cioè farite, però non farite, cioè tutto molto triste, una storiaccia. Ci andiamo a sentire un pezzo, va. Mettiamo gli Skins. Mettiamo gli Skins. Vogliamo mettere gli Skins? Sei sicuro che vogliamo mettere gli Skins? E dai, mettiamo gli Skins allora, che prima non ci siamo riusciti, ci proviamo adesso. Eccoli qua, dunque, allora dicevamo The Skins, spariamo The Up Against the Wall. Yes, I am. 7 version. are shining, there's no need to be hiding from it. Me rock a man, I can't see me in the club. He told me he a walking and he fall at the sound of dub. He told me dun dun dun dun dun. He told me dun dun dun dun dun. He told me dun dun dun dun dun dun. He told me dun dun dun dun. The force of life, a trouble through his body as he says it. His eyes were bright and full of love, he held me as he says it. No man can resist that primitive call. Love and I never put a back against the wall. Love against the wall, love against the wall. Red man held me close and tell me 10 times he was. Up against the wall, love against the wall. Love and I let you down and let your freedom fly. You got to have soul, so no, no chicken. You see the world, me hear the world, he felt it's so chicken. Ebbene sì, e questi erano i The Skins, secondo noi un gran sound, abbiamo avuto il piacere di sentirli qua a Roma. In uno spazio sociale, poi però sociale, sociale. Ma siamo sicuri che dovremmo mettere la canzone di Rancore. Non lo so, vabbè. E comunque un ne parliamo, però. Comunque dobbiamo fare una puntata su queste cose. Sì, la faremo una puntata. E direi un serotone hanno un sound grandioso. E comunque ritorniamo un po' a noi, all'oggetto della puntata, insomma, quello che ci sta opprimendo in questa settimana, ovvero la spazzatura di cui ci stiamo cibando attraverso varie notizie. Appunto abbiamo visto Sanremo, abbiamo visto chef grandiosi, insomma valorosi esponenti del capitalismo che vanno però così a fare, vanno ai concerti hardcore, perché no, vedi, sfaccettature del mondo, bene così. No, ma quella è l'unica cosa di cui non ci lamentavamo comunque. Bah, comunque dipende. E noi proseguiamo purtroppo oggi senza il nostro Jack alla guida del nostro, io te l'avevo detto, in diretta da 87.9 dagli studi di Via De Vocis. E dai, eccoci qua, Simone e Matteo. Dunque, bella. Noi nel frattempo, mentre stiamo insomma aspettando un nostro contatto, riprendiamo un po' il filo di discorso. Abbiamo appunto visto, si parlava dell'uscita fatta da Amadeus. Diteci pure voi che cosa ne pensate, eh? Qua abbiamo il telefono 06 49 17 50. Se ci chiamate ci dite che ne pensate, ci facciamo due chiacchiere, vediamo. Ma non solo, noi allargheremo anche un po' l'oggetto a quello insomma che sta esplodendo in TV e come, no, no, come combattere. Esiste fortunatamente una parvenza di TV ancora intelligente, al contrario di, insomma, di queste persone che vengono pagate tantissimo, prendono tantissimi soldi e poi come aprono bocca fanno danni. Però raga, a me mi piace il loro concetto della visione del mondo è molto becera. A me piace un sacco loro, mi devo cucina. A te, io lo so, a Matteo è vero, ogni volta che lo vado a trovare sempre a una volta c'è la coratella, una volta. Però perché squilla il telefono, squilla il telefono. Cioè, aspetta, aspetta, ecco, forse è quello che vi dicevo prima. Pronto? Pronto? Pronto? Chi è? Chi è? Buonasera. Oh, buonasera, buonasera. Grande, chi è? Chi è? Chi sei? Pasquale Canovaccio. Pasquale Canovaccio, sì, o chef o udronista famoso, oh, quello Pasquale Canovaccio, niente proprio di meno che Pasquale Canovaccio. Grande tronista, Pasquins. Chef tronista. Come stai, Pasquins? Uè, non l'avete riconosciuto, è strano. Sì, adesso sì, ci perdoni. Dalla parlata pure, no? Certo, signor Canovaccio, noi non seguiamo il programma però abbiamo capito. No, io faccio fatica a perdere questo accento napoletano. Certo. No, va bene, noi ci piacciono gli accenti, i dialetti, tutto ci piace. Non ce l'ha. No, grazie. No, vabbè, ma avete chiamato? Ci dica, noi volevamo sapere, lei che è uno chef e un tronista, niente, proprio due figure proprio che oggi papà acceso proprio per quello di cui volevamo discutere. Lei, insomma, va a sentire concerti dove, se dove? In caso. Vado a sentire concerti, ma mo dipende, cioè, sente concerti, allora. Che musica sente? Uno chef tronista, che musica sente? Sono cresciuto un po' con un nome melodico. Noi ci aspettavamo sta cosa. Un pochetto avevamo capito. Io ho iniziato un po' con i matrimoni dei camorristi, capisci? Insomma, è un bel business. Quindi sapete che se siamo fatti con Gigi, mamma mia. Immaginiamo. Con Gigi, evitate se siamo fatti. Poi non è che è proprio musica, io su chef e tronista ho già fatto Guaglione Film, cioè ho tutti Guaglione Film, non conoscete Guaglione Film? No, Guaglione, famosissimo Guaglione Film, che appunto sto concetto della film sempre. Sto grande successo, abbiamo fatto film nel Filmanist, abbiamo fatto tutti i programmi, non conoscete, ma no. Sì, no. Non conosciamo, ci dispiace, ma noi volevamo. Senti, ma lei che ci prepara al ristorante suo? Ma io ho già avuto una grande carriera, ma un ristorante mio proprio mio no, mai, sempre insomma in cucina lavai i piatti, c'è qualcun altro lavai i piatti, lei non chef, scusi, guarda, ho trovato qualcuno che lava i piatti allora. No, sì, babbo, ma l'hanno sequestrato il ristorante. Lascia fare. Insomma, poi la mia carriera in realtà ci ha avuto un declino da quando io ho ispirato da Piero Manzoni, famoso artista. Artista, e hanno voluto fare i profilax, no? Tipo, ma allora lei vede che scusa. Un bel panino che ha merda la cipolla. Guarda, ci siamo arrivati, signor Canovaccio, vediamo. È buona. Magna. Aspetta, c'è l'avvocato. C'è l'avvocato che deve dire. Pronto? Chi è avvocato? Pronto? Buonasera a voi. Finalmente, mi grazie, vi risentiamo. Ma mi grazie, cosa ci fa col signor Canovaccio, chef tronista? Sono il suo legale, no? Mi grazie, a lei c'è una capacità avanzata ovunque. No, è merda. No, volevo soltanto dire che il mio assistito in realtà da quei fattacci, diciamo, dei matrimoni, dei camori, è sempre stato prosciolto da ogni cosa. Giustamente lei ricordava appunto, niente, ma, sa mai. Cioè, poi faceva le serate, non ho capito, andava a cucinare, quindi faceva solamente non questo. Si è capito se cucinava o comunque si suonava, però in qualche maniera qualche piccia faceva, ma se c'è grazie. Ma Gigi pure cucinava, lascia stare, no? Dipende da che cucinavano. Comunque se n'è andato l'avvocato. Se è andato l'avvocato Migrazi, lo so, l'avvocato Migrazi è così, appare, è un po' dovunque. Ma io volevo soltanto dire tre cose per chiudere, insomma, anche perché. Vada, signor Canovaccio. Io volevo fare un saluto a Giacomasso, che magari si riprende un po' di meno. Salutiamo, condividiamo il saluto. Poi volevo fare un saluto alla radio, che mi sembra pure doveroso. Grande. E poi non dimentichiamoci che oggi ci sono un paio di elezioni regionali, ma io volevo ricordare a tutti che al peggio non c'è mai fine. Buonasera, arrivederci. Ciao, buonasera. Ciao, arrivederci. Vabbè, uno peggio dell'altro. E va bene, e quindi ci abbiamo avuto grandissimo oggi, guarda, due partecipazioni, il signor Canovaccio, chef tronista, e che ha un legale, abbiamo scoperto, Migrazi, il nostro affezionato legale, Migrazi, il re degli intrallazzi. E questa laptop. Esatto. E a noi piace giocare così, però intanto si affrontano temi importanti, no? Come sempre, questa è il life motive della trasmissione. Oggi tutti un po' tristi che non c'è Jack. Vi ricordiamo in tutto ciò, anche se Giacomo Mazzo non c'è, ma lui già ha fatto, che abbiamo aperto il 30 per 1000. Esatto, ragazzi. 30 euro, 1000 persone. Per far vivere la radio un altro anno tranquilla con le bollette, con l'acqua, con tutte quante le cose, senza che si scappa. Però comunque andiamo avanti lo stesso. Ok, una radio indipendente, appunto, e ha bisogno di un aiuto di tutti, e quindi bisogna partecipare e contribuire quanto più possibile per mantenere l'indipendenza della radio, la libertà, insomma, e questo è la bellezza della radio. E quindi via, sottoscrivete. Padre e questo pezzo lo abbiamo scelto perché proprio in funzione di questo noi crediamo che tutto possa essere migliorato, però insomma, ci vuole un po', come dire, a questi personaggi tipo quello che dicevamo del Sanremo, appunto, andrebbero un po', come dire, bisognerebbe ricominciare dalle basi, e noi abbiamo pensato di ricominciare proprio dalle basi, dalle un po' strane, e questo è il Padre Nostro, il teatro degli errori. Padre nostro, che sei nei cieli, tu sia benedetto, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, così come noi rimettiamo ai debitori. Non mi indurre in tentazione, ma liberami dal male. Passato e il futuro non sono più niente. Non soltanto i terremoti, ma le guerre, le ingiustizie, il languore della fame. Come se fosse giusto, come se niente fosse. E dispersi in mare gli innocenti in galera, la fatica, il dolore e ancora la fame. Come se niente fosse, come se fosse giusto. We'll be right back. così, allora non soltanto Dio non governa il mondo, quando dicevamo appunto prima che dovevamo ricominciare dalle basi in nome del Padre e del Figlio, ci hanno messo uno Spirito Santo pure di metterci una donna, e quindi ecco perché bisognerebbe ricominciare insomma un po' dalle basi per questi personaggi, e mi limito a questo per non essere un po' più pesante. Che mi verrebbe naturale. Vai, ma lo sto tenendo a bada, è giusto, vai, ci piace. E noi proseguiamo, allora, settima puntata di Io Te L'Avevo Detto, 87.9 Radio Onda Rossa, e ricordiamo appunto di contribuire attraverso Scarceranda, e ancora se andate sul sito trovate tutte le forme per poter sottoscrivere la radio per la libertà di questa emittente ora e sempre, da circa 40 anni nell'etere, ricordiamolo, sempre indipendente, non insomma, mai venduta insomma, alle, no, non sentirete mai pubblicità a parte le nostre demenziali della Kleptofer, ma no, non è vero, io mando la pubblicità. È l'agenda giusta per tutta la banda. Scarce, randa, com'è? Scarce, randa. Piace a tutti quanti tranne a chi comanda. Scarce, randa, com'è? Scarce, randa. Signora gente, la mia gente vuole uscire. Scrive rime su un'agenda, sconta una sentenza a file. Odia le manette, le palette, le gazzelle. Scrive barre da ribelle, spezza sbarre delle celle. È l'agenda giusta per tutta la banda. Scarce, randa, com'è? Scarce, randa. Piace a tutti quanti tranne a chi comanda. Scarce, randa, com'è? Scarce, randa. Scarceranda contro ogni carcere, giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Scarceranda è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa. Viene donata alle persone prigioniere che ne facciano richiesta o che vengono segnalate alla radio. Supportaci su scarceranda.ondarossa.info. Quanto spacca poi Scarceranda, è fighissima. Dai, raga, che sei fighissima. 2020, Scarceranda. Dai, aspettiamo. E allora ricordiamo il potete tema. Potete passare a prendere radio quando volete, tutte quante le iniziative. Sì. Chiedete seguiteci agli amici, ve la portiamo. Dai. E allora dicevamo, riprendiamo con il tema della giornata, che era appunto la sporcizia TV e quello che stavano, insomma, le dichiarazioni un po' shock di questa settimana, che erano appunto grandi chef plurimiliardari, esponenti di grandi case multinazionali dell'alimentazione, che vanno così a concerti in spazi sociali a vedere l'hardcore. Grandi chef che poi mancano chef, Bastiani. Ma non lo so io, no, che cosa è solo, io sto con, ma poi i piatti chi li lava? Io secondo me li dovrebbe lavare lui, dopo che ne ha lavati 700-800.000, secondo me. Infatti, cioè se trasferisce allo vediamo, spazio sociale. Vediamo un po', va. E allora dunque, oltre a questo abbiamo affrontato il tema spinoso che c'era stato il Sanremo, di quella dichiarazione, mamma mia, paurosissima, che ha fatto quel buon conduttore, che ci ritroviamo tra l'altro con noti programmi su TV nazionali, che proprio persone pluri, insomma, pagate milioni e milioni, che vengono così poi insomma, durante una conferenza stampa aprono bocca e fanno danni, e questo insomma è la, cioè, di cui stiamo parlando, e ciò che sta succedendo in questa settimana. E intanto si affrontano temi sulla TV spazzatura e su, per esempio, quegli orribili, secondo me orribili, a mio avviso orribili, programmi, le lotte sul cibo, su chi si sfida per cibo, chi cucina meglio un cibo. Attenzione, c'è una telefonata in arrivo. Ma chi lava i piatti alla fine, abbiamo detto? Chi lava i piatti? Questa è la domanda della giornata, regà, e ponetevelo. Vabbè. Pronto? Pronto? Pronto, chi è? Salve, buonasera, sono Antonella Clerici. Ah, grande. Buonasera. Se non sbaglio anche buonasera. Lei è coinvolta in tutta quanta questa cosa qua del passo indietro. No, lei è una di quelle che deve stare un passo indietro, se non sbaglio, secondo ma qualcuno. Sì, ma io vi ho chiamato per questo, perché sono veramente, cioè, io non sentivo delle polemiche del genere dai tempi di Pigazzi che mangiava i gatti, cioè una roba veramente inconcepibile. Boh, sì. Non so se vi ricordate Pigazzi. Sì, sì, ce lo ricordiamo benissimo. Sì, Pigazzi, sì. Nota figura. Ecco. Allora, questo è il festival delle polemiche. Prima Rula Jabrel, poi Junior Cali, quell'altro fenomeno, quell'altro genio lì. Eh sì. Insomma, Amadeus ha fatto veramente una frittata di merda, si può dire? Ma sì, sì. Se si può dire tutto. Ok. Veramente ha fatto la figura dello sfigato, no? Beh, secondo quello sì, secondo noi sì, in realtà sì, questa stato, visione della donna che non condividiamo. È stato un po' uscita un po' infelice. Ma sì, cioè, non so se avete visto la come si chiama lì, la conferenza stampa, no? Sì, non so, ha scelto praticamente una squadra di calcio femminile, siamo in 11 e praticamente l'unica cosa che ha detto è che erano molto belle, cioè non so, la vuoi dire un'altra volta? L'ha detto 28 volte che erano molto belle, va bene, allora immagino che a me non abbia scelto perché so fare la torta paradiso, cioè non so. Ma no, ma anche lei è bellissima, so, l'interazione con soggetti. Grazie, grazie. Siete molto gentili, però guarda, cioè veramente la verità l'ha detto 50 volte, non so, sembrava, ma magari sai, magari ha capito male, cioè non so, magari lui era convinto di stare presentando Miss Italia, chi lo sa, magari ha capito male, non ha capito che era Sanremo, magari ha capito di stare a Miss Italia, si era confuso. Sei confuso, è probabile, sì, non mi sembra così un genio, Amadeo, no. Neanche a noi, ma sì, dai, cioè sembrava veramente Miss Italia. Già mi immaginavo Diletta Leotta col numerino lì sulla testa che parlava, che proloquiava della pace nel mondo, dai, o no? Ci fa molto piacere che la signora Clevi sia delle nostre, insomma, su questa battaglia. Siamo molto. Ma infatti, come mai non è intervenuta la conferenza stampa? C'era paura che la cacciavano come la giornalista. Ha ragione, cioè io durante la conferenza stampa praticamente mi sono congelata, non so voi, cioè lì era o da mettersi a urlare o da stare zitti e aspettare che finisse il più presto possibile, no? Cioè il problema è che là dovevano parlare tutte, no? Ci dovevamo alzare tutte quante e dargli una sprangata di botte lì in quel momento, no? Sì, sì, io. Allora ho visto, guardate in giro le mie colleghe che erano tutte sorridenti così perché si erano sentite dire 380 volte che erano belle e allora nessuno ha parlato, ho detto vabbè, mi faccio i fatti miei, parlerò più tardi, non so. Ma poi sta, adesso io in questo momento comunque vorrei che tutte le polemiche in qualche modo finissero perché comunque Sanremo è una manifestazione importante e mi dispiace insomma che tutte queste polemiche lo stiano infangando, ecco, cioè per colpa di quel genio di Amadeus, allora non si parla di altro che non della musica, ma di queste robe brutte che sono successe. Capito? Amadeus Abdul Mustafa Ali, il califfo di questa media, capito? Grande la Clary, grande, ci fa molto piacere. Senta, ma perché non facciamo una diretta streaming di Sanremo da Ritonda Rossa? Come la vedi, Simo? Con Sanremo? Una diretta streaming? Sì, facciamo. Poi ci dovete far intervenire. Un quarto d'ora di dibattito a serata, per noi va bene. Ma guarda, se me lo fai sapere, io ci metto una buona parola. Dai, proviamoci, dai. Guarda, su Amadeus non ti prometto niente perché ti ripeto, cioè secondo me è uno sfigato che non capisce niente, però non so, io ci proverò, devo parlare con le altre 10 bomber e poi vi faccio sapere, va bene? Va bene, vi faccio sapere. Mi raccomando. Oh, grandi, grazie. Grande, dicevamo. Grande lei. Mi raccomando, mandaci €30 per il 30 per 1000, aspettiamo tutti quanti. 30 per 1000, ma ve ne mando 60. Grande, pardoni. La Greci, grande. Dai. Ciao ragazzi. Ciao, bella. Guardate Sanremo, va bene, vi saluto. Certo, facciamo una puntata su Sanremo. Certo. Ma quando è? Ah, non me lo ricordo mica, sai. Ah, ecco, bene. Ciao, Vale, ciao. Ciao ragazzi, mi avete fatto una domanda troppo difficile, io non lo so quando è Sanremo. È vero, manco io. Neanche noi, cioè, manco io in realtà. Ma vabbè. Ciao raga, va bene. Un abbraccio. Ciao, bacetto. Ciao, Ale, grazie. Ecco qui. Eccoci, dunque. Eccoci, eccoci. Ma sì, rifletteva dunque con la clerici. Senza parole. Eh sì. Se domenica pomeriggio... Beh, c'è queste, vedi, le domeniche pomeriggio si affollano. Quando, sì, ai microfoni... Negli studi di Radio Onda Rossa, io te l'avevo detto, succedono cose impensabili. Noi nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare tutta la squadra, insomma, di Io te l'avevo detto, Valeria e tutti gli amici, insomma, Giulio, Peppe, Nena, belli. Dai, Giacomo Mazzo, che in questo momento non c'è, e allora lo abbracciamo e proseguiamo appunto a sbeffeggiare un po' la TV spazzatura, e proprio ci si concentrava su appunto mega show sul cibo e Sanremo, questi erano i temi, e purtroppo, come dire, sulla triste vicenda delle comunicazioni di Sanremo, insomma, la visione della donna di Sanremo sta facendo uscire una serie di polemiche, un po' farà parte della pubblicità, un po' noi questa dichiarazione durante la conferenza stampa veramente, come dire, veramente scioccati, e quindi ci sembrava giusto sbeffeggiare un po' e parlare un po' della situazione e fare dire la nostra, insomma, e quindi eccoci qua. E proseguiamo intanto. Spock, tu che dici, come? Sono le 7, possiamo. Sono le 7. Senti l'ultimo pezzo e ci andiamo. Siamo stanchi. Ieri abbiamo fatto tardi, dai, io sono stanco, andiamo. Lui è stanco. Noi ricordiamo che veniamo dalla nottata di ieri, bellissima serata, abbiamo avuto il piacere di suonare a Scoop. Ringraziamo tutti e tutte che hanno partecipato alla serata insieme agli Etrusca, è stato e tutti i ragazzi e le ragazze, insomma, del DJ set. Un seratone, ne accusiamo, insomma, come potete, avrete potuto ben sentire ancora i sintomi, però cioè, abbiamo ancora le forze per dare un po' di come dire, un po' di sbeffeggio, sbombotronico a Io te l'avevo detto. Comunque, cioè, ridico, è stato troppo ridico, non si può fare, come risolviamo questo problema, Spo? Chi lava i piatti? Chi lava i piatti? Perché il quesito della domanda che ci ponevamo prima anche con Alma De Casa è proprio: ma chi lava i piatti? È proprio quello che volevamo chiedere, secondo voi chi li lava i piatti? Proprio, chi li lava i piatti in generale? Questa domanda, questo che potrebbe significare molto di più, una semplice domanda. Allo 0649175 0, la vostra visione del mondo, insomma, del mondo femminile, del mondo maschile, il rapporto, insomma, come lo vedete? Come lo vedete? Come vedi? Ma qualsiasi esso rapporto sia, secondo me, insomma, basta che ci sia amore, poi via. Ma evidentemente lui non la vede così. Ma io so io e voi non siete in casa. Ecco, questo è il pensiero. Esatto, questa è la loro mentalità. Secondo me questo è il problema, comunque. In fin dei conti è questo il problema. Ma il problema, qui il problema poi quando ci sarà Jack pure, perché si è ampliati molto il discorso, come dicevamo, va a finire su, insomma, un livello molto più ampio di questo. Non è una, noi volevamo sbeffeggiare la battuta che ha fatto il noto conduttore, ma in realtà dietro c'è una visione molto maschilista che andrebbe affrontata e che noi volevamo comunque affrontare bene poi, insomma, in puntate più in là. E nel frattempo noi vi ricordiamo che, insomma, siamo alla 7ª puntata, è stato intanto buttiamo là due impressioni, no? Cioè due, su come sta andando secondo noi, no? Guarda, siamo molto contenti, speriamo anche se era voi. Per me, io subito ho fatto scelta del genere, subito Gulag. Via Gulag. Ecco, lui è così, ma da una parte io pure la condivido, però Gulag, te lo sei invitato. Però noi siamo vecchio stampo, e quello è il problema, insomma. Vabbè, forse saremo noi, non lo so, però non lo so, però io non l'avrei fatto manco. Ma il problema è proprio un monte, come diciamo, forse persone così non dovrebbero proprio parlare in emittenti nazionali. Ma infatti proprio dovremmo buttare tutte le televisioni tutti insieme. E poi faremo anche una puntata, perché no, su Sanremo, così affronteremo questo tema spinoso del Festival della Musica Italiana, che fa proprio, no, è diventato oramai un pessimo, questa è la nostra, insomma, opinione. Ce lo prova a condurre a noi. E lo diciamo proprio, no, da umili aspiranti musicisti, così non mentiamo. No, l'anno prossimo conduciamo noi. Sì, sì, sicuramente. Matteo, conduttore di Sanremo 2021. Sì, sì. Ci batteremo per questo, insomma, e quindi poi parleremo, cioè, vi aspettiamo nelle prossime puntate anche, siamo quasi in chiusura, dunque tu Spo, che sei, no, fai una scuola di chef, diventa chef. Io già sono chef tronista, come il nostro signor Canone. Già sono chef io. Che vuol dire sta cosa, chef? Chef. Tu non sei chef, no? Come no? Sono chef. Certo sono chef. Dai. E chi lava i piatti? La sto io. Grande. Vabbè. Non me l'aspettavo. Sì, sì, sempre. Vedi, lui mi ha risposto così, secco. Sì, ma infatti il problema non è chi lava i piatti. Il problema non è chi lava i piatti. E noi qua ci stiamo, come dire, tagliamo nel frattempo su questo tema. Il problema è. Tanti applausi, ragazzi, è bellissimo. Applausi, applausi, si sì, meritano. Sì, sì, tanto vanno solo gli applausi. C'ha ragione Sandro. Bah, questa non la vedo proprio così, io non condivido neanche. No, ma io poi qui apriamo una polemica che non ti dico. Voglio che basta. Ti levo la scorta. Informazione sanguina, informa razzisti che ascoltano il pop, qualcosa non torna. L'Italia è il suo fascino snob. Milano è l'asciugo e lo smog. Un'opera vecchia che dura da un tot. Non trova un finale come Turandot. Senti, Dio dice. Aprono i conti ma chiudono i porti. Rubano i soldi impossibili opporsi. La gente sorride coi tagli si polsi. Pronto soccorso, siamo già morti, lottando in un mare di odio affogati dai nostri rimorsi. Dio non l'ho visto ma ci conosciamo, odio la chiesa ma sono cristiano. Prima di essere un vero italiano, cerca di essere umano. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi, e facce che cercano schiaffi. Ma trovano sempre gli applausi, applausi. Influenza latina, cercano la hit estiva, rum e cocaina, codeina, sembra che c'hanno la tosse canina, slaccio la cinghia, ciupami, ciupami, pringa, a sti rapper di minchia, non gliela do vinta, ritornerò in cima per dargli una spinta. Avvisiamo i signori passeggeri che questo aereo si sta per schiantare al suolo, allacciate la cintura, le buone al mic. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show, è come volare in economy. Le buste del vomito, corpi vestiti di graffi, le facce che cercano schiaffi, portavano sempre gli applausi, applausi, applausi. Quindi sì, Salmo secondo me non c'ha tutti i torti. Beh, guarda, noi in realtà non è capito proprio così. Però insomma. Vabbè, dai, comunque questo è pure lo specchio d'Italia, cioè, se quello sta in televisione e uno così sta lì, vuol dire che un sacco di gente lo guarda. È un po' correlata la cosa. C'è lui, c'è Amadeus e c'è sta pure quest'altro. Sono legati, vedi, Sanremo appunto. Sono lo stesso problema dello appunto star system, come lo si vuol dire, visto sotto quel punto di vista, quel tipo di star system, insomma. E che è quello che si criticava noi oggi in questa puntata, appunto, le svarionate che ci sono state in questa settimana, appunto, che dicevamo un noto chef